la leggenda, la leggenda che mi ha sempre contato, che sti anni le spose, qui che si sposava e le portava in castello, sì, 3-4 notti, 3-4 giorni, non so, che dopo si è battuti. Chi è qui che si è battuto? Non so che tipo di guerra che si tipo di guerra, perché stai assediati per 7 anni, Castel Besino. Per 7 anni. Ben. E lì non voleva più, non era più nessuno che voleva sposarsi, non voleva più dargli le donne, e vien fuori che si è battuti. Sì, a fare una guerra tra civili e quei che era dentro, ecco. E sa fa allora, gli è stai assediati per 7 anni, gli aveva l'ultima vacca, gli aveva l'ultimo frumento, gli aveva Jacopo la vacca, gli ha dato l'ultimo frumento alla vacca, gli ha buttato dalle mura la roba della mucca, la panza con dentro la roba, e gli ha detto per 7 anni che se mi stai, per 7 che staremo, viva il Castel Besin. Ecco, l'hai mai sentita questa, no? Ecco. E gli ha detto, allora gli è nato, perché gli ha detto per 7 anni mi ha sediato, sì? E per 7 che ne ancora, è meglio che niente, però che resta 7 morti, sì? 7 mariti di queste spose morte, e che deve essere il capitello delle 7 vedove, è una leggenda. Quella è il capitello. È il capitello delle 7 vedove. Una volta c'era lungo la strada il capitello, si entrava da un portone grande, un po' più basso del castello, e lungo la strada che girava si trovava un capitello, quello lo ricordo. Carpaniere, capitello delle 7 vedove. Ma quella lì era la bella con forgeria che la dura 200 anni, una roba del genere. Quella è documentata. So che era lì con tante derecce, mi ascoltare, mio papà e i miei qua che conteva che queste spose, insomma, quindi vanno andare in castello per, insomma, sì, le prime notti di nozze, capirai, dargli agli altri, dargli agli altri, sì, dove. Sì, beh, questa era la leggenda, forse. Dopo, del documentano è... Però 7 anni è stato assediato. No, anche per noi, después di Altarini, perché sarebbe stato quello che veniva su del corso. Magari sì, anche. Dai qualcotte. E che era le stanze delle 7 vedove, perché quella lì vedeva che quando le sposeva bisogna che le porta su, no? E per la prima notte bisogna che le porta su in castello, invece che gli uomini, e che era lassù gli uomini. Altro che lì ti ricordi che quando gli si sposeva le donne bisogna che le porta là la prima notte a fare la marcia funebre. Le camere delle 7 vedove non so neanche mica come dite che siamo le 7 vedove. Ed è che proprio in piazza hanno che per le feste noi, che se guardavo altri quando ne sono in castello, che ne è dentro un ponte, quasi in fondo, che è una piazza grande, no? Quelle lì, le stanze delle 7 vedove.